quanto inebriante l'odore di pancia che si espande nell'aria, le sue fiori colorate. Passeggiare per le strade del paese piccolino in cui vivi e scrutare con occhi sconosciuti il verde del suo campo e le case che d'inverno s'addormentano ed accorgersi che tutto è normale ed accorgersi di quanto è bello e banale. Polvere lungo le strade con piedi ormenuti indossando le fradite vestiti leggeri sognando il mare ed accorgersi che tutto è banale ed accorgersi che è bello e normale. Passaggio della gente ai canti di risveglio dei grilli nei giardini, vedere la luce, stare in piedi fino a tardi ed apprezzare la notte con le sue temperature miti, con la sua presa che ti accarezza la pelle ed accorgersi che tutto è normale e trovare anche bello il banale e restare un po' senza respiro e sognare ancora un po' il mare. E aver voglia di vivere maggio perché ha raggiunto la coscienza delle sue tante bellezze ed accorgerti ciò che non è mai veduto ed accorgersi che è bello e normale.